reportage. Mobilità post-Covid. L'Europa adesso cambia. Di Alessandra Schepisi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. J'invite toutes celles et ceux qui peuvent faire du vélo à le prendre. Voilà. Referencia a los desplazamientos al trabajo y siempre que sea posible se deben de utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal. Es preferible, por tanto, acudir al trabajo andando, en bicicleta. Incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e affollamento. The government says in the post-COVID-19 era, it's time to get people off public transport and onto bikes. Da Berlino a Londra, da Budapest a Milano, da Parigi a Roma. Con la fase 2 milioni di lavoratori hanno ripreso a muoversi per le città. Ma come garantire a tutti il diritto di spostamento nel rispetto della regola del distanziamento sociale? I mezzi pubblici non bastano per tutti e l'auto privata non può essere l'unica soluzione, a meno di non volere città congestionate dal traffico e inquinate. Ecco perché la maggior parte delle città europee sta puntando su piani di riorganizzazione urbana che favoriscano l'utilizzo di mezzi privati alternativi e sostenibili. E tra le principali misure, incentivi all'acquisto di bici, creazione di ciclabili di emergenza, pedonalizzazione dell'area urbana, introduzione di limiti di velocità. Tra le prime città a muoversi con la creazione delle cosiddette piste ciclabili pop-up è Berlino, come ci racconta Tonia Mastrobuoni, giornalista corrispondente del quotidiano La Repubblica, dalla capitale tedesca. Un effetto collaterale positivo della crisi da coronavirus è stato l'aumento esponenziale di queste pop-up bike lane a Berlino. Cioè, siccome la mobilità si è molto trasferita sulla bicicletta, perché Berlino ha rallentato molto i mezzi pubblici, cioè la frequenza con cui passano la S-Bahn, le metropolitane, eccetera, per ovvi motivi, no? Per motivi di tutela della pandemia durante il lockdown, che poi qua è stato parziale. In questo periodo i berlinesi hanno cominciato molto più a prendere la bicicletta e quindi il senato si è mosso, della città si è mosso immediatamente e ha costruito tantissime di queste ciclabili provvisorie, che sono appunto le pop-up bike lane, che sono quelle disegnate con una molto veloce, con un po' di pittura insomma a terra. Poi adesso però il Senato ha deciso che queste ciclabili dovranno essere rese invece da provvisorie stabili e che aiuteranno ad accelerare la famosa svolta del 2018 annunciata dal governo, dal nuovo sindaco insomma di Berlino, Müller, appena si è insediato con un governo di insomma rosso-verde, quindi SPD e Verdi. Berlino vuole costruire entro il 2030 100 chilometri di superstrade per le biciclette e ampliare enormemente le ciclabili che ci sono ad oggi. Peraltro i berlinesi sono molto attenti anche persino alla larghezza delle ciclabili, perché c'è stato un famoso caso su un ponte dove la ciclabile era troppo sottile e quindi i residenti di quella zona hanno protestato e la ciclabile è stata effettivamente ampliata. Quindi anche i berlinesi sono cittadini molto attenti, che si muovono molto in bicicletta e sono molto attenti anche ai loro diritti. Parigi, stanziati 300 milioni per costruire circa 650 chilometri di ciclabili nella regione Île-de-France. Anche Londra sta puntando molto sulla mobilità alternativa per evitare assembramenti sui mezzi pubblici e ridurre il traffico d'auto. Il governo ha varato una manovra senza precedenti, 2 milioni di sterline per finanziare gli spostamenti a piedi e in bici, mentre il centro di Londra verrà interamente pedonalizzato. Giulio Ferrini, capo dipartimento di urbanistica e di Sustrans, l'associazione inglese che promuove la mobilità dolce. Diciamo che Londra si è resa conto molto presto che il rientro alla normalità sarebbe stato impossibile. Prevedono che insomma il numero di persone che possono andare su autobus e metro sia tipo un quinto o un sesto del numero di persone che ci andava, diciamo, in condizioni normali, e quindi subito si sono mossi per cercare di mettere in piano dei progetti per consentire soprattutto al maggior numero di persone possibile di andare in bici o a piedi. E però il problema fondamentale all'inizio erano gli investimenti, diciamo che Il Transport for London, che opera, diciamo, tutti i trasporti di Londra, ovviamente ha continuato a operare i propri servizi, però senza avere introiti, quindi sono andati al governo chiedendo un bailout, che è arrivato settimana scorsa, di 1,5 miliardi di sterline, che gli ha permesso adesso di lanciare il loro piano di investimenti. Quindi hanno messo a disposizione 50 milioni per adesso per queste iniziative temporanee, e hanno soprattutto reintrodotto la congestion charge, che verrà aumentata a £15 al giorno da giugno. La congestion charge è il, diciamo, per entrare in centro a Londra devi pagare se entri in macchina, adesso è £11 al giorno e aumenterà a £15 al giorno. E hanno reintrodotto anche la Ultra Low Emission Zone, che è una zona che copre un'area ancora più vasta, che anche quella sono tipo, dipendendo dal tipo di macchina che hai e quanto inquina, devi pagare anche quello. Quindi hanno reintrodotto subito queste misure, e adesso stanno introducendo molte zone che diventeranno pedonali o comunque solo ciclopedonali, con alcune cose anche con degli autobus, e stanno guardando stanno progettando l'investimento in piste ciclabili protette. Però quello ancora non hanno iniziato con una vicino a Regent's Park, ma per adesso l'approccio, devo dire, è stato quello di la cosa più semplice è ridurre il numero di macchine, e quella è la cosa più semplice e che avrà il più grande impatto. Quindi hanno annunciato settimana scorsa la più grande zona ciclopedonale al mondo, hanno chiuso London Bridge alle macchine, faranno lo stesso con Waterloo Bridge, e diverse zone della city diventeranno solo ciclopedonali. Anche l'Italia sta cercando di fare la sua parte. Il governo ha approvato incentivi per l'acquisto di bici e misure a sostegno della ciclabilità. Pioniera Milano, l'assessore alla mobilità Granelli. Milano ha circa un 220 km di percorsi ciclabili. Noi abbiamo presentato un piano con la realizzazione di primi 23 chilometri nuovi di percorsi ciclabili, sostanzialmente tutti in segnaletica, e quindi che potranno essere a disposizione dei cittadini nel corso dell'estate, i primi da metà maggio e poi man mano nel corso dell'estate, e stiamo lavorando per implementare ulteriormente questo piano usando il più possibile modalità smart, quindi la segnaletica. E queste le voci raccolte dalla nostra Cristina Carpinelli lungo un tratto della nuova corsia ciclabile di Corso Buenos Aires, che ha suscitato anche qualche polemica da parte di residenti e commercianti, una viabilità che il comune ha comunque promesso di migliorare. Secondo me tutte le polemiche sono abbastanza scure, cioè io sono contenta che l'abbiano fatta a prescindere, è un'iniziativa valida. Ci sono macchine parcheggiate lungo la ciclabile? Generalmente più in fondo sì. Cosa ti dà andare in bici a lavoro? Vabbè, in questo periodo si respira un po' d'aria e comunque più tranquillità, perché in metropolitana ancora non mi sento sicura. Super comoda, poi l'hanno appena fatta, si viaggia bene. Io in realtà arrivo da Mariano Comense e ne arrivo in macchina fino a Buenos Aires, ho la bici pieghevole nel baule e appena arrivo la carico giù e pedalo. Ho un ragazzo ipocondriaco, no, glielo giuro, e quindi mi ha consigliato, anzi obbligato, a prendere la bici. Poi vabbè, faccio anche un po' di attività fisica, mi fa bene. Vado in monopattino, lo trovo comodo, molto comodo. E fai la ciclabile? Faccio la ciclabile, sì. Spero che l'allunghino, a dire la verità, fino a Loreto, perché io abito vicino alla stazione centrale e quindi spero che la portino fino a Loreto. In Porta Venezia praticamente la gente che deve svoltare a destra attraversa la ciclabile, e lì secondo me è molto molto pericoloso. Per il resto secondo me va abbastanza bene. Trovo intelligente il fatto che hanno messo dei parcheggi che di fatto fanno da barriera ai monopattini, quello lo trovo una cosa molto molto intelligente. È un ottimo progetto, solo che in alcune parti bisogna rivedere, perché ovviamente è un po' scomodo per chi deve venire a fare forniture o che. Sì, sicuramente è un ottimo progetto anche per diminuire sicuramente tutti gli spostamenti attraverso mezzi pubblici, e che creando meno affollo di persone. mezzi alternativi raccomandati dalla Commissione Europea, che sta studiando strumenti per incentivare la nuova mobilità. Tre programmi dedicati EIT Urban Mobility, nell'ambito del quale fino al 31 maggio le start-up innovative impegnate nel settore della mobilità urbana possono partecipare al bando europeo per la Business Acceleration, con l'obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e l'inclusione sociale negli spazi urbani, ripensando il sistema dei trasporti in chiave ecologica e smart. Ma c'è anche l'idea di riorientare i fondi dei progetti Horizon, che si occupano di ricerca e innovazione sulla mobilità attiva. Ne parliamo con Paolo Ruffino, urbanista ed economista della società olandese di consulenza sui trasporti Decisio. Ci sono tutta una serie di strumenti che già la Commissione Europea sta studiando. Chiaramente adesso definire di guardare questo o quell'altro è un po' prematuro, perché appunto stanno ancora discutendo molto su vari sistemi e varie modalità di aiuto, quindi è tutto in evoluzione come panorama. Di certo ci sono già tutta una serie di piattaforme disponibili, sulle quali, tramite ad esempio il discorso dei progetti europei, sulla quale già la Commissione sta convocando poi tutta una serie di incontri di tipo strategico su come appunto riorientare un po' i progetti, ad esempio Horizon, che si occupano di ricerca e innovazione sull'ambito della mobilità in ottica però Covid-19. E quindi anche noi, che stiamo lavorando all'interno di un progetto europeo che si chiama Handshake, siamo coinvolti alla Commissione appunto per guardare a come riorientare un po' gli obiettivi delle città partner affinché appunto si studino delle soluzioni, anche in questo caso innovative, sul discorso mobilità. E in questo caso, diciamo, di nuovo la ciclabilità e restituire spazio alla pedonalità è di fatto la strategia che è, diciamo, la più raccomandata non solo dalla Commissione Europea ma anche dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che era uscita, diciamo, non molto tempo fa con proprio delle linee guida sull'incentivo, no, rispetto a queste modalità, proprio perché limitano il contagio e aumentano l'attività, i livelli di attività fisica nelle persone, che adesso in un periodo di ormai quasi 2 mesi e mezzo sono rimaste chiuse in casa. Quindi diciamo tutti sono propendono verso questa tipologia di soluzione. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.